spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà sentirti meno fragile. Quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, saprò capire, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini, scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera, se hai voglia di cantare, scrivimi, anche quando penserai che ti sei innamorato. Mai di me, e se